Bene, allora vi ringrazio per la partecipazione. Mario Capanna lo conoscete, Gabriele Falsetta è della scuola del Piccolo Teatro e ci condurrà per mano nelle letture previste oggi pomeriggio. Questa è la prima delle iniziative di quest'anno che danno seguito a un connubio, quello tra il Piccolo Teatro e Radio 24, che abbiamo varato l'anno scorso, devo dire con reciproca soddisfazione. La formula di quest'anno è leggermente diversa. Ve lo ricordo, l'anno scorso avevamo un personaggio che sceglieva un libro che aveva lasciato traccia nella sua infanzia e si rendeva disponibile a raccontarlo. Quest'anno con Mario Capanna invece variamo una formula leggermente diversa. Il personaggio, l'ospite, sceglie una coppia di sentimenti contrapposti e poi individua il libro che meglio gli permette di discutere intorno al tema. La coppia di sentimenti che ha scelto Mario Capanna è Follia e saggezza, quindi molto impegnativa. Il libro che ha scelto lo è altrettanto, Alla pace perpetua di Immanuel Kant, oppure Per la pace perpetua. La prima domanda è molto semplice e quasi banale ed è, come potete immaginare, perché Mario ha scelto Follia e saggezza e poi a ruota perché ha scelto il libro di Kant. Naturalmente follia non nel senso clinico del termine, ma nel senso culturale, politico, etico. E non a caso i latini parlavano di insania, no? Quindi ciò che è contrario alla sanitas. E secondo me follia è in larga misura la condizione del mondo contemporaneo, della razionalità, o io preferisco dire della irrazionalità moderna, per le molte cose che avremo modo di approfondire. E saggezza, nel senso anche qui filosofico profondo, e saggezza intesa come il decidere tenendo conto delle conseguenze di lungo periodo. E quindi il contrario, come dire, della immediatezza, della miopia che non valuta le conseguenze, diciamo, successive. Dentro questa forbice il libro di Kant a me è sembrato il non plus ultra. Per la pace perpetua è uno dei suoi libri relativamente meno noti, che ad esempio non vengono fatti studiare ai studenti di filosofia nel liceo, secondo me con un gravissimo peccato. Di solito vengono fatte studiare le opere più pesanti, no? Critica della ragion pura, critica della ragion pratica. E invece questo secondo me dovrebbe essere un testo proprio da tenere sul comodino, perché tra l'altro, visto a 2 secoli circa di distanza, mostra una modernità straordinaria. Cioè è incredibile come un uomo che scrive questo libro a 71 anni, nel 1795, riuscisse con una lucidità incredibile a prevedere una molteplicità di temi che intersecano direttamente le questioni di oggi e del futuro. Tanto era, come dire, premonitore e precorritore sui temi della modernità. Abbiamo pensato di aprire con le letture richiamando l'inizio di questo testo, e vi è in particolare quello che un po' dà il senso al libro, e in particolare vi è un passaggio che secondo me è molto bello e mi permetto di segnalarvelo, dove si fa riferimento a quel dolce sogno, con riferimento ovviamente alla pace perpetua. Alla pace perpetua. Non vogliamo indagare se un simile motto di spirito alla pace perpetua, scritto da un oste olandese sopra un'insegna su cui era dipinto un cimitero, si applichi agli uomini in generale o ai capi mai sazi di guerre di uno stato in particolare, oppure solamente ai filosofi che vagheggiano quel dolce sogno. Però coloro che esercitano la politica nella pratica non degnano di attenzione colui che la analizza nella teoria e lo guardano dall'alto in basso con manifesta compiacenza e lo definiscono un sapiente da scuola che con le sue teorie prive di sostanza, non espone lo Stato ad alcun pericolo, a cui sono da contrapporre esclusivamente soluzioni tratte dall'esperienza. Un sapiente a cui si può lasciar votare il sacco, anche in un sol colpo, senza che l'uomo di Stato, esperto del mondo, debba in alcun modo curarsene. Così, l'autore del presente trattato chiede soltanto che, in caso di guerra, si debba almeno essere così logici da non voler fiutare un pericolo per il governo in uno scritto reso pubblico in balia della propria fortuna e contenente opinione pubblicamente professate. Con la presente clausola salvatoria, l'autore si ritiene chiaramente e adeguatamente al sicuro da ogni interpretazione maligna. Bene, abbiamo detto follia non come situazione personale dell'animo umano, ma come smarrimento dell'essere sociale, della comunità in cui si vive. Il massimo della negazione è la guerra, no? Il massimo della negazione del concetto di saggezza. Mario? Beh, basta stare alla cronaca. La vicenda Corea del Nord e Stati Uniti, addirittura siamo alla minaccia di impiego di ordigni nucleari, qualche cosa di inimmaginabile fino a poco tempo fa, dopo le crisi precedenti, quando si è arrivati più di una volta sull'orlo di una guerra atomica guerreggiata. E se questa non è follia, a prescindere dalle ragioni che uno accampa, eccetera, no? Ma anche la pretesa di questo minuscolo Stato totalitario di sfidare il più grande esercito del mondo, sapendo che se davvero usasse armi nucleari sarebbe automaticamente raso al suolo, distrutto, ma pensate con quale trauma per l'insieme di quella zona del mondo, ma per l'insieme dell'umanità. E allora quando Kant dice, attenzione, perché la guerra è di per sé non solo illogica, ma cattiva e inutile, perché, citando una massima degli stoici, non riuscirà mai a eliminare più uomini malvagi di quanti ne produce, di quanti ne crea. E però, detta 200 circa anni fa, ripeto nel 1795, lo spunto glielo dà la pace di Basilea, negoziata tra la Francia rivoluzionaria e la Prussia, alla quale Kant apparteneva, sapendo egli, lo dice chiaramente, che è una cosa fragile. Da qui l'idea di immaginare un apparato concettuale delle riflessioni per appunto la pace perpetua. Faccio degli esempi, perché a volte siamo portati a dimenticarlo. Non dimentichiamo che ci sono ancora oggi soldati occidentali in Iraq, dove siamo andati sulla base di una colossale bugia, come si ricorderà. Le famose armi di distruzione di massa che tutti sapevano che non c'erano e poi si è appurato che non c'erano. Con la conseguenza che al tempo di Saddam Hussein c'era indubbiamente una dittatura, ma l'Iraq ignorava il terrorismo, oggi ne è diventato il crocevia. Parlavo con Fabio preparando questo incontro, una sorta di micidiale coazione a ripetere della cultura occidentale, perché la guerra in Vietnam iniziò sulla base di un'analoga bugia. Il famoso incidente del Golfo del Tonchino nel 1964, secondo cui una nave da guerra nord-vietnamita avrebbe sparato su una nave da guerra americana. Nel 1967, venendo pubblicati inopinatamente dei documenti fino allora segreti del Pentagono, fu rivelato che l'incidente non era mai esistito, ma era stato fabbricato a tavolino dalla CIA. E naturalmente, essendo scoppiata questa notizia nel 67, fu di grande propellente ovviamente per tutte le lotte degli studenti nei campus americani, ma anche in Italia, Milano, Roma, eccetera. Ecco, questo per dire, no, come se da una parte, soprattutto per chi inizia le guerre, ci sono sempre, tra virgolette, delle buone ragioni per cominciarle, in realtà sempre cattive, di solito la prima vittima, come noto, è la verità. Per cui spesso si fanno le guerre sulla base di una bugia artefatta. Beh, non è follia questa? Mi pare assolutamente indiscutibile, no? E quindi da questo punto di vista la riflessione di Kant comincia non a caso dallo stigmatizzare la guerra e immaginare delle contromisure, diciamo, che leghino i popoli, gli stati, l'insieme del consorzio umano perché finalmente si possa bandire la guerra. Concludo con una riflessione. Il processo di acquisizione della coscienza umana è molto lento, maledettamente lento come sappiamo. Però ad esempio siamo riusciti faticosamente a rendere tabù l'incesto, a rendere tabù il cannibalismo. La guerra non ci siamo ancora riusciti, è il prossimo traguardo. Io non dispero che un giorno, il più possibile, mi auguro ravvicinato, ci si possa arrivare. Per cui l'idea di fare la guerra deve provocare vergogna, non solo il fare la guerra deve essere ritenuto cosa immorale, ma il solo pensare di poter fare la guerra sarà un grande traguardo per l'umanità. A prima vista che la guerra sia follia appare un concetto di facile comprensione. Perché invece è così difficile trasformarlo in un tabù? Kant dà una sua risposta, perché dice l'aggressività umana, una sorta di tara della natura umana. E su questo io critico Kant, se posso permettervi, nel senso che ho studiato e per esempio il concetto stesso di natura umana è una costruzione storica. I primi a usare questa locuzione, la natura umana, furono quei sottilissimi pensatori, i sofisti, in particolare uno, Ippia Delide, che per la prima volta usa il termine la natura umana. Ma non sta scritto da nessuna parte che gli esseri umani siano così stupidi da non capire, cito Bertrand Russell, da non capire che produrre armonia, competizione pacifica, coesistenza, amore anziché odio, fratellanza anziché discordia è infinitamente più intelligente e piacevole che produrre montagne di cadaveri con la guerra. Ecco, non è che alla fine gratta gratta è un problema di interessi, di benefici economici, di modo distorto di immaginare per esempio l'uscita da crisi drammatiche, cioè la guerra come motore di sviluppo economico? Storicamente direi che è sempre stato così, da Sparta a Atene, Romani e quant'altro, e tenendo conto tra l'altro che, così veniamo subito alle... E noi oggi, grazie a tutti questi giochi di follia e grazie anche alla follia della globalizzazione, dico follia guardando a come si è praticamente realizzata, abbiamo prodotto una situazione per cui l'1% dell'umanità possiede da solo il 50% delle ricchezze del pianeta e il 10% dell'umanità possiede da solo circa l'85% delle ricchezze della Terra. E questo 1 e 10% controllano tutto, l'informazione, l'economia, la finanza, la speculazione finanziaria. Sono quelli che hanno creato la crisi dei mutui, no? Dal 2008, la bolla speculativa di cui portiamo ancora le conseguenze, che non sono certo vicine alla fine, è la guerra, da ultimo la guerra. Ciò che ho detto sull'Iraq non lo ripeto, va da sé, no? Ecco, allora... Il termine interesse, soffermiamoci un attimo, l'etimologia è interessante, inter-esse, essere fra. L'interesse nel senso più profondo del termine è la convivenza, è l'attraversare, il compenetrarsi nel comune destino costruendolo insieme. Interesse inteso come conflitto è alla base della follia. Oggi una grande guerra risulterebbe totalmente distruttiva e quindi impossibile. Il numero delle guerre però cresce, guerre locali. Non solo cresce il numero delle guerre, cresce il numero delle vittime civili. Cioè a morire sono sempre meno i soldati in armi e sempre più i civili inermi, in particolare i bambini, le donne, gli anziani, le fasce più deboli della popolazione. Come aumenta il numero dei profughi, dei rifugiati, e questo dopo possiamo arrivare al tema della emigrazione, per esempio, no? Perché è evidente che continuando a pensare di risolvere le cose con i conflitti armati, anziché creare sviluppo dove ci sono le origini della povertà, che sarebbe la cosa più intelligente e anche più remunerativa per l'intero mondo, è evidente che aumentando le disparità, il controllo appunto oligopolistico della ricchezza, eccetera, È evidente che tre quarti dell'umanità vengono sempre più condannati alla disperazione, alla miseria, alla penuria. E questo crea tutte le tensioni di cui anche ai giorni nostri. Nella speranza che dalla grande crisi non si esca con una grande guerra, che oggi è distruttiva, direi di sentire a questo punto il passaggio del libro che è meglio di ogni altro identifica per Kant la guerra come follia. Della garanzia di una pace perpetua. La guerra stessa, poi, non necessita di altro movente all'infuori di quello insito nella natura umana, in forma di nobile e disinteressato impulso all'ambizione. Perciò, non soltanto fra i selvaggi americani, ma anche nei tempi di dame e cavalieri del Medioevo, il valore militare fu tenuto in grandissimo pregio, sia durante la guerra, questo logicamente, che come sprone a combattere per poterlo sfoggiare. A ciò si deve se la guerra fu stimata cosa altamente onorevole di per sé, anche da quei filosofi che ne hanno fatto l'apologia, come se ad essa andasse attribuito un nobilitarsi del genere umano, in memory della famosa massima di un greco: la guerra è un male in quanto genera un numero di malvagi più grande di quelli che distrugge. Dal concetto che la guerra è follia, la necessità della saggezza, e cioè di trovarvi un rimedio. E qui nascono nel libro di Kant delle riflessioni su che cosa può contrastare il meccanismo della guerra tra popoli, e quindi l'immaginarsi un'unione tra popoli, un concetto di cui si parla molto negli ultimi anni, di federalismo in chiave diversa. Esattamente. Ma anzitutto mi volevo complimentare con l'attore, perché, come dire, esalta la potenza concettuale di Kant con una recitazione che immagino se l'autore sentisse ne sarebbe orgoglioso. E questa è un'osservazione, secondo me, molto... molto pertinente, Fabio. E anche qui però con una, perché evidentemente non è che dobbiamo santificare Kant, no? Qualche critica gli va fatta. Allora, lui pensa, ripeto, 1795, incredibile, no? E a una sorta di, lo chiama fedus pacificum, un patto di pace, di pacificazione fra gli stati, attenzione, gli stati. Ed era già una cosa straordinaria, perché in questo modo praticamente lui preconizza l'avvento delle Nazioni Unite, dell'ONU, con l'anticipo di un secolo e mezzo. E per di più ragiona in un'Europa dominata dalle monarchie, mentre lui dice no, perché questo patto sia il più possibile efficace, ci vogliono le repubbliche, di cretini, di sovrani. Anche perché aveva di fronte la neonato Stato federale degli Stati Uniti, appena fresco di rivoluzione. E la Repubblica Francese, anche se poi darà vita a Napoleone, quindi un'altra forma, diciamo, in qualche modo di potere autocratico. Però, ecco, il salto che non è riuscito a fare e che io mi permetto di dire è oggi di attualità fondamentale. Immaginare un organismo che permetta il protagonismo insieme dei popoli, non degli stati. Se voi guardate anche la carta delle Nazioni Unite, dice no, i popoli della Terra, poi due righe sparisce, i popoli spariscono e vengono in primo piano gli stati. Ed ecco perché l'ONU non funziona. È una sorta di ferro vecchio obsoleto, con il potere di veto, no? Perché i cinque che hanno il diritto di veto, per cui ogni questione che ciascuno di loro, tutti e cinque insieme, ritenga che possa danneggiare i propri interessi, è veto, non passa, non si approva. Io mi sono permesso in un libro di qualche anno fa, che mi sono avuto un buon successo, non ci speravo, di fare questo ragionamento. Allora, siamo 6 miliardi e mezzo, quasi 7 di bipedi umani, e organizzati in stati, eccetera, con interessi confliggenti, così. Perché non immaginiamo di immaginare questo concetto, di realizzarlo? Ciò che riguarda tutti deve essere deciso da tutti, elementare. Allora, ad esempio, la sopravvivenza della Terra interessa a tutti. Il no alla guerra, la guerra come tabù, interessa a tutti. Una equa distribuzione delle risorse interessa a tutti, e via elencando. L'idea di un Parlamento mondiale. So che il termine può suonare impopolare, visto il ruolo dei parlamenti oggi, ma cerchiamo di traslare, di trasporre, no? Un Parlamento mondiale, ci vorrebbe niente dal punto di vista tecnico. In 24 ore, seguendo i fusi orari della Terra, si vota in tutti i paesi. E si nomina ad esempio un parlamentare ogni 6 milioni di abitanti della Terra. E avremmo un Parlamento di 1000 persone, più o meno quanti sono i deputati e senatori attualmente in Italia. Lo vogliamo un pochino più rappresentativo? Eleggiamo un parlamentare ogni 3 milioni di abitanti della Terra. E avremmo un Parlamento di 2000 persone. Mi pare più follia che saggezza, però. Aspetta. Perché? E comunque 2000 persone è sempre meno del pletorico apparato che popola il palazzo di vetro a New York. Dici follia, pensiamoci bene. In un simile consesso parlamentare, nemmeno se India e Cina, i due paesi più popolosi, si alleassero, avrebbero la maggioranza. Non ce l'hanno. Devono comunque mettersi d'accordo con gli altri, no? Attenzione però, in assenza di questo organismo, vedi, c'hai ragione, apparentemente sembra folle. Ma qual è l'alternativa? È che ognuno fa le pippe sue. E l'alternativa è quella che abbiamo visto. In questo modo, chi è più ricco tenderà a concentrare sempre più la ricchezza e chi è più povero a diventare sempre di più. Quindi, attenzione, è follia quella attuale. Può essere saggezza questa scommessa sul domani. Io non so se ci si arriverà. Ovviamente questo è il mio auspicio. E però, come dire, è il ragionamento sulla falsariga di Kant. La unione degli stati non funziona. L'ONU ne è il rappresentante emblematico. Il mondo può andare avanti così? Questa è vera follia. Cioè, immaginare che il mondo possa andare avanti così, con i mutamenti climatici. Vi rendete conto, i 2700 scienziati che 4 anni fa per conto delle Nazioni Unite all'unanimità, cosa rarissima, perché se prendete 2 soli scienziati su ogni tema, che ne so, le cellule staminali piuttosto che gli OGM o la fecondazione assistita, immediatamente scatta una dialettica, come giusto, essendo la scienza, come dire, che si nutre di questo. Questi 2700 scienziati di varie discipline all'unanimità ci hanno consegnato la seguente conclusione: i mutamenti climatici stanno arrivando a un punto tale che siamo alle soglie dell'abisso. Parole pesantissime. Cioè, ancora un passo e non potremo tornare indietro. E occorrono 3 rivoluzioni. Fabio, capisci? Allora vediamo, perché è qui che si gioca il discrimine tra follia e saggezza. Una rivoluzione dell'economia, appunto. Non più l'1% che controlla il 50%. È rivoluzione dell'economia. Redistribuire. Una rivoluzione delle coscienze e una rivoluzione politica. Capisci che fanno passare noi del 68 per socialdemocratici. A noi di rivoluzione ce ne bastava una. Quindi dicono, no, una non basta, ce ne vogliono 3. E simultanee. Prima una, poi l'altra. Tutte e 3 insieme. Questa è la grande scommessa che abbiamo di fronte come consorzio umano. E allora si capisce, no, come partendo da Kant, lui ci dà davvero linfa e alimento per questi che non sono dei voli pindarici. Ma pensate se la televisione, i parlamenti, i pulpiti delle chiese parlassero di queste cose. Quale dimensione riacquisterebbe la politica? Anziché le fregnacce, i saggi, quello che perde tempo, quell'altro che dice ma di allora no, sì però, capite? E allora io penso che il merito di Kant è stato questo, che con questo libricino che resta, no, viene stampato sempre in lente ma inesorabile edizioni, che ci stimola a questi pensieri alti. Ma io penso che per meno di questo la vita diventa puro vegetare, insomma, no? Non è degno di noi se non cerchiamo di pensare a questa altezza di riflessione sul destino comune che abbiamo di fronte. D'altra parte è un po' il peccato mortale, no, dell'epoca che stiamo attraversando. Siamo bombardati ogni giorno, e io ne sono uno degli artefici, dalla parte di chi bombarda, di informazioni, di notizie a getto continuo, ma viene sempre più a mancare la capacità di proporre dei momenti di riflessione che pare non interessino più a nessuno. Beh, tu sei direttore di una importantissima mezzo di comunicazione che ha milioni di ascoltatori, no? E sai meglio di me, come oggi, salvo lodevoli eccezioni, l'informazione non c'è più, è sostituita dalla propaganda, che è un'altra cosa. E la propaganda è una merce, come il petrolio, le derrate alimentari, c'è chi la produce, chi la vende, chi la compra, chi la propala. Non c'ha niente a che vedere con l'informazione. Dopodiché noi oggi abbiamo i grandi strumenti veloci, internet, computer, eccetera. Perfetto, no? L'avessimo avuti noi anziché quel maledetto ciclostile, probabilmente avremmo fatto mezzo secolo fa delle cose assolutamente straordinarie, ma per fortuna andavano bene anche quelle. Ma dicevo, siamo sicuri che come dire, internet dia conoscenza? Io sono contro la dicotomia, no? Quelli che dicono internet è il demonio, internet è la salvezza. È uno strumento, e come tutti gli strumenti dipende dall'uso che se ne fa. E può essere estremamente utile per collegare, far girare, circuitare informazioni, vedi il ruolo che ha avuto nelle primavere arabe, tra i giovani e così via. Quindi indubbiamente colgo l'aspetto positivo. E però c'è l'aspetto della prigionia della superficialità, dove, come dire, i fatti non hanno più una origine, uno sviluppo e una conclusione. I fatti accadono e basta. E in questo modo si perde il nesso dell'insieme. E questa è una delle altre ragioni per cui l'informazione non c'è più. Ma c'è il bombardamento di frammenti di notizie che non danno conoscenza, non l'aumentano. Non a caso c'è l'analfabetismo di ritorno, non sembra banale, ma invece è una cosa assolutamente logica. Varrebbe da commentare follia e saggezza. Follia perché bombardati da milioni di notizie e mancanza di saggezza per l'incapacità di elaborarla. Ma direi che è arrivato il momento di sentire dalla voce di Kant, si fa per dire, dalle parole di Kant con voce di Falsetta, il concetto di una nuova convivenza tra i popoli, di un federalismo tra popoli e stati. Secondo articolo definitivo per la pace perpetua, il diritto internazionale deve essere fondato sopra una federazione di stati esteri. Dal momento che la ragione, dal trono di somma potenza morale legislativa, condanna senza mezzi termini l'impiego della guerra come procedura giuridica ed anzi stabilisce come dovere immediato la pace, e dal momento che una pace non può essere fondata o garantita senza un trattato tra i popoli, è quindi necessario che vi sia una lega di natura speciale, che si potrebbe chiamare lega della pace, fedus pacificum, distinta dal trattato di pace pactum pacificum, in quanto questo mette fine ad una guerra. Quella, invece, a tutte. Una tal lega non tende ad alcun acquisto di potere da parte di uno Stato, ma puramente a conservare la libertà di esso e nello stesso tempo anche quella degli altri Stati confederati, senza che questi, come uomini, allo Stato di natura, debbano con ciò assoggettarsi a pubbliche leggi e a coercizione tra di loro. L'effettuabilità, realtà oggettiva, di un federalismo successivamente estendibile a tutti gli stati, è in grado di condurre in tal modo alla pace perpetua, sarebbe evidente nel momento in cui la fortuna facesse in modo che un popolo colto e potente si costituisse repubblica, la quale deve, per sua natura, tendere alla pace. La Repubblica sarebbe un punto centrale di unione federativa per altri stati perché si aggreghino, in modo da garantire così una condizione di pace conforme all'idea del diritto delle genti, che si estenderebbe via via su più vasto campo con altre alleanze di tal fatta. C'è un terreno, c'è un binario di rapporti tra gli stati che emerge con chiarezza dalla lettura che è appena stata fatta, ma c'è poi un tema di rapporto tra le persone, tra i popoli, ed è questo forse che sarebbe interessante come introduzione alla prossima lettura. Kant lo definisce il diritto alla ospitalità. Esatto, lo accennavamo. Le ondate migratorie. Non ripeto le cifre, no? Ma siccome appunto c'è quel controllo oligopolistico sempre più stringente sulla ricchezza, è evidente che qualcuno ci smena. A smenarci, abbiamo visto, è la maggior parte dell'umanità. La quale, a quel punto, che fa? Ciò che faremmo noi fossimo al loro posto. Si corre addirittura il rischio di morire durante la traversata in mare e si cerca di andare là dove un tozzo di pane in qualche modo si cerca di prenderselo. Dinanzi a questo fenomeno, di cui badate siamo solo agli inizi se non cambiamo rotta su scala planetaria, per cui andremo incontro a esodi biblici se questa sarà la tendenza che non verrà arrestata, c'è chi anche da noi dice no, il problema si risolve molto semplicemente, tutti a casa loro. Sì, ma scusa, quello non c'ha manco la casa, affari suoi. Quindi con atteggiamenti di tipo razzistico, xenofobo e così via. Kant dice attenzione, non dobbiamo scordare che la Terra è di tutti, la Terra nel senso il pianeta è di tutti, e che quindi tutti hanno un pari diritto all'ospitalità. Se io vengo da te, e rispetto naturalmente le leggi, non creo disordini e così via, tu non hai il diritto di cacciarmi. Hai il dovere di accogliermi e io viceversa se tu vieni da me. Ripeto, 1795, pensate che modernità. Perché ancora oggi c'è un sacco di gente che la pensa esattamente all'opposto. Cioè tu stai a casa tua, guai se vieni da me. Anche se vieni per lavorare per me, per accudire i miei anziani per esempio e così via, per fare i lavori che i miei figlioli, tutti bellini, non vogliono più fare, quelli pesanti, dalla raccolta dei pomodori, dalle acciaierie del Bresciano e compagnia bella, dice no, non va bene lo stesso, perché comunque... Ecco, allora, rendersi conto che il pianeta che abitiamo è solo questo e che se andiamo avanti a distruggerlo come siamo orientati a fare, non abbiamo un altro di ricambio. Se riflettiamo su questo, la nostra visione della realtà, anche quotidiana, delle piccole cose, cambia. Per cui, ad esempio, quando apro il rubinetto dell'acqua, evito di sprecarla. E se questa cosa la insegno ai bambini fin dall'asilo, allora sarà il piccolino che dirà «Mamma, guarda che la luce in quella stanza non serve, perché in quella stanza non c'è nessuno». E siccome quella lampadina è accesa, da qualche parte si sta bruciando qualcosa che inquina. E quindi cambia tutto, perché cambia la prospettiva, la visione. Allora, ci vuol tanto a capire che abbiamo un destino comune e che la ricerca della fratellanza, la costruzione della fratellanza tra uomini e donne, a prescindere dalla pelle, dalle religioni, dalle culture, eccetera, eccetera, è la cosa più intelligente. E queste non è che sono come delle poesie pindariche, ma è che è qui che si decide... come vogliamo costruirci come singole persone e come popoli e come collettività. Il richiamo di Kant è perentorio, che non consiste in un generico vogliamoci bene, non usa mai questa espressione, tra virgolette, sdolcinata, ma dice attenzione, perché la Terra è sferica, una considerazione apparentemente banale, e quindi prima o poi, gira, finiamo per ritrovarci tutti lì. E allora, viviamola. Bene, viviamola con rispetto, viviamola con equilibrio, costruiamoci in questo modo. E quando dico equilibrio uso un'altra parola di significato strategico. No, io lo dico perché spesso nella furia della fretta siamo portati a dimenticare il senso profondo delle parole, no? Equilibrio viene da equum, uguale, pari, e libra bilancia, la parità dei piatti della bilancia. La prepotenza invece vuole che i piatti stiano sempre uno sopra l'altro sotto. E da qui appunto tutti i mali, eccetera. No. Quindi creare l'equilibrio è la impresa più nobile, perché è una conquista che va riconquistata ogni momento, ogni minuto, non è mai data una volta per tutte. Così la democrazia, così la libertà. Se non vengono difese di continuo, il rischio di perderle, come si è visto anche nella storia del nostro paese, è sempre dietro l'angolo. E quindi è questo lavorio incessante di costruirsi donne e uomini migliori. Perché è da considerarsi utopia? Questo è il realismo. Il contrario di questo è la follia dell'irrazionalità moderna che ci sta portando nel vicolo cieco. Temo però che il concetto dell'accoglienza possa risultare un po' desueto. Nella mentalità dominante e corrente sì, è desueto. Ma l'alternativa qual è? L'abbiamo già visto. Una è la guerra, l'altra è crearsi il nemico. E quindi la conflittualità permanente, no? Ce ne siamo scordati l'idea delle ronde, l'idea delle ronde, poi per fortuna rivelatesi una bufala irrealizzabile o comunque irrealizzata, però culturalmente cosa voleva dire, no? No? Che tu a casa mia e io ti... questa è l'inciviltà. Allora, cominciamo a fare i conti con quella che viene continuamente ogni giorno presentata come la sapienza moderna, che in realtà è la follia della irrazionalità moderna, è perché è qui che si gioca il nostro discrimine. Kant, 2 secoli fa, fece la sua scelta contro quella che era ritenuta la razionalità dominante, predominante, condivisa. Disse: io non sono d'accordo, perché il destino dell'umanità deve essere costruito in quest'altra maniera. Beh, noi oggi abbiamo un compito analogo, nelle condizioni nuove, evidentemente, la storia non si ripete mai, con problemi più complessi, aggravati, anche perché largamente irrisolti, e quindi, come noti, i problemi irrisolti tendono a diventare ancora più gravi e più numerosi. Però è su questo che io credo dobbiamo concentrare l'attenzione e il confronto. Sentiamo Kant sul diritto all'ospitalità. Terzo articolo definitivo per la pace perpetua. Il diritto cosmopolitico deve essere limitato alle condizioni di ospitalità generale. Qui, come negli altri articoli precedenti, non trattandosi di filantropia, ma di diritto, la parola ospitalità significa il diritto che spetta ad uno straniero di non essere trattato con ostilità a motivo del suo arrivo sul territorio altrui. Può essere allontanato, allorché ciò non comporti la di lui rovina, ma finché egli si mantiene pacificamente al proprio posto, non deve essere trattato da nemico. Questo non perché egli accampi un diritto di ospitalità. Per ottenere ciò sarebbe necessario stipulare un contratto speciale che gli attribuisca il beneficio di essere conterraneo per un tempo stabilito, ma perché recante un diritto di visita che spetta a tutti gli uomini. Essi infatti si aggregano alla società in virtù del diritto di possesso comune della superficie terrestre. E dal momento che nessun individuo ha, in origine, diritti maggiori di un altro sopra una porzione della terra, ed essendo questa sferica, gli uomini devono sempre, alla fin fine, tollerarsi reciprocamente su di essa. Guerra, pace, follia, saggezza, la grande mediazione è data dalla politica. La politica la fanno gli uomini. Gli uomini hanno delle motivazioni. E qui parte l'ultimo momento di riflessione che abbiamo tratto dal libro di Kant. La politica, gli uomini, le motivazioni. Che cosa spinge gli uomini a fare politica? Qui si potrebbe aprire un dibattito.

Ecco, in che misura, secondo te, il tramonto delle ideologie ha poi accentuato una interpretazione della politica più sul versante del fare affari che sul versante della nobiltà dei sentimenti d'animo? Io, senza contraddirti, ma vorrei richiamare l'attenzione su un punto. Questa metafisica del tramonto delle ideologie, mica tutte. L'ideologia del libero mercato è tramontata, no? Ed è un'ideologia, la più potente oggi delle ideologie esistenti. Quella che è alla base del famoso 1% che controlla il 50% e il 10% che controlla l'85%. Quindi sono morte alcune ideologie. Non è morta non solo l'ideologia del mercato, ma l'ideologia dell'avere, che è, come dire, la tabe originaria della cultura occidentale. Si è in quanto si ha. Se questo principio continuiamo a permettere che guidi i nostri passi, allora molte cose che il senso comune ritiene disdicevoli sono in realtà logiche. Se tutto è prendibile, accaparrabile, ottenibile, eccetera, eccetera, dice Leana Spalla in quello bellissimo spettacolo Il fiume della prepotenza, allora perché non violentare una donna? Perché non insidiare l'innocenza di un bambino? Perché non fare la guerra? La guerra si fa per prendere qualcosa, o risorse energetiche, la dominazione di un territorio, imporre una religione contro un'altra, quante guerre di religione sono state fatte. Viceversa, se comprendiamo che importante è ciò che si è più di quanto si ha, allora tutto ciò che sembra logico nella accezione dell'avere diventa impraticabile. Per cui l'idea di violentare una donna, insidiare l'innocenza di un bambino, fare la guerra, non possono albergare nei nostri cuori e nella nostra mente, perché ci impoveriscono, oltre a creare il danno. Allora, il problema è, oggi siamo disposti o no ad affrontare, ed è l'ultima cosa che dico, ci vorrebbe un dibattito apposito, quello che è, secondo me, il più negativo, famelico e distruttore dei tabù dell'irrazionalità moderna: il profitto. Solo dei mentecatti, più o meno da un paio di secoli, hanno cominciato a ragionare in base all'idea che io produco non le cose che ci sono utili, ma produco anche le cose inutili che permettono a me di arricchirmi. Per cui addirittura si programma ormai la obsolescenza dei manufatti, no? Cioè, prima una lavatrice, magari costruita con metodi tecnologici antiquati, durava 30 anni. Adesso si programma che duri, perché poi bisogna ricomprarla. Se no il business viene a morire, no? Cioè, è illogico. E tornare a concepire i rapporti economici basati sull'idea dell'onesto guadagno. Oh, guardate che anche il linguaggio ha la sua importanza. Il termine profitto è neonato. Compare nelle lingue occidentali, italiano compreso, verso i primi del 1800, con appunto i primi grandi processi di accumulazione, eccetera, eccetera. Il termine guadagno, viva Dio, esisteva già ai tempi di Dante. Quindi siamo 1800 anni, cioè molto più. E onesto guadagno significa che si ricava il giusto senza sfruttare nessuno. Ora, perché questa, di nuovo, deve essere utopia? Perché? Peraltro, oggi ci sono esperienze, come dire, largamente comprovanti, che non è utopia. La produzione e il commercio equi e solidali, che stanno crescendo al ritmo di circa il 10% l'anno, mentre tutto il resto è allo sviluppo zero, in depressione e in crisi, e dimostra che un modo alternativo rispetto al profitto capitalistico non solo è praticabile, ma addirittura che è in crescita sia nei paesi sviluppati sia nei paesi meno. E quindi di nuovo è un fatto di scelta, di produzione culturale, di opzione. Ecco perché noi dobbiamo armarci di spirito critico, perché se ragioniamo secondo una dimensione critica, vediamo la follia dell'irrazionalità moderna e vediamo anche, stimolati anche da Kant, le possibilità concrete di superarle. Io non lo so, Fabio, credo che siamo vicini alle conclusioni, no? O no, perché poi dovrà ancora lui leggere. Beh, c'è ancora spazio per essere e non avere, no? Che poi, riassumendo in una battuta, è questo. Essere e non avere. Non c'è dubbio. La preeminenza dell'essere sull'avere. Che poi era il detto degli antichi monaci, no? Chi è ricco? Già Seneca, no? Colui che può fare a meno delle ricchezze, costui è veramente ricco. Allora il famoso detto dei monaci: omnia mea me cum porto. Io porto tutto ciò che ho con me. La mia ricchezza sono io, il mio cervello, la purezza del mio cuore. Ecco, se riscopriamo questo, ma allora vivere diventa una cosa entusiasmante, bella, allevare i figli, no? Cioè, amarsi, una cosa straordinaria. E quindi, siccome la storia riserva sempre delle sorprese, nel momento in cui sembra sembra che si vada verso l'avere più che l'essere, e la Chiesa Cattolica, per esempio, è una Chiesa che ha molte ricchezze, per esempio, ma la storia sorprende sempre, e forse nell'ultima conclave potrebbe essere uscita una nuova sorpresa. Francesco, Papa Francesco come un nuovo Papa Giovanni XXIII? O è troppo presto per dirlo? Ma io sono giudico da laico, ma non c'è dubbio che è un elemento di novità, di rottura, cioè non è paragonabile al predecessore, insomma, dove porterà non lo so. Ma io credo che è destinato a dare una scossa, che in parte è già percepibile, no? Anche nel mondo laico, non solo per i credenti, è già percepibile nei comportamenti, nell'aver scelto il nome del mio grande conterraneo umbro, no? C'è solo un matto, dice Francesco, c'è la povertà, gesuita. Oh, attenzione, gesuita è importante, non a caso nel precedente conclave lo sosteneva Carlo Maria Martini. Dovete sapere che si diventa gesuiti dopo un tirocinio di 15 anni, durante i quali la predisposizione d'animo deve essere che quando suona una certa campanella a orari non preavvisati, bisogna ipso facto mollare quello che si sta facendo in questo momento e correre in refettorio, perché il responsabile chiama per un'ora. Dopo 15 anni di una roba così, capite che o uno esce pazzo, oppure è forgiato per insapienza e conoscenza, diciamo. Questo Papa, oltre alla coscienza e conoscenza del gesuita, ci mette la grande umanità latinoamericana. E badate che lo spirito latinoamericano è molto innovatore, spesso è rivoluzionario, senza citare Che Guevara, Bolivar e molti altri, no? E quindi speriamo in bene, l'inizio è buono. Nell'attesa di verificarlo, si potrebbe forse ricordare che proprio nel primo discorso dopo la nomina, Papa Francesco ha citato, senza renderlo esplicito, proprio una battuta di Che Guevara, dicendo non bisogna mai perdere la propria tenerezza. Forse è indicatore, potrebbe essere indicatore di un percorso. Non mettiamo limite alla provvidenza. Nell'attesa di verificarlo, l'ultima lettura di Kant. Sul dissidio fra la morale e la politica, riguardo alla pace perpetua. Sebbene la massima "la rettitudine è la miglior politica" contenga una teoria che, purtroppo, spesso la pratica contraddice, tuttavia la teoria "è meglio la rettitudine di ogni politica" è infinitamente superiore ad ogni obiezione. Anzi, la rettitudine è condizione indispensabile per la politica. Il Dio che esercita la morale non cede a Giove, Dio che esercita la forza, giacché questo sta al di sotto del falso, cioè la ragione non è sufficientemente in grado di riconoscere la serie di preesistenti cause che possono far conoscere con certezza in anticipo così come accade nel meccanismo di natura, l'esito buono o cattivo delle azioni o rinunce umane, per quanto si speri ciò conforme ai desideri. Cosa, però, si debba fare per seguire le orme del dovere, secondo le regole della saggezza? La rettitudine ce lo indica abbastanza chiaramente, illuminandoci così la via verso il fine ultimo. Posso certo immaginarmi un politico morale, un uomo cioè che intenda che i principi del praticare il governo possono coesistere con la morale, ma non posso assolutamente immaginarmi un moralista politico che sistemi la morale come conviene di volta in volta all'uomo di Stato. Il politico morale avrà come principio che sia dovere, specialmente per il capo di uno Stato, qualora si scoprano imperfezioni che non si sono potute evitare nella Costituzione o nelle relazioni estere, esaminare come si possa al più presto correggere tali imperfezioni o renderle conformi al diritto naturale secondo l'esempio che ci fornisce la ragione e che ci serve come modello da realizzare, sì, anche a costo di sacrificare il proprio egoismo. La vera politica non può dunque muovere alcun passo senza prima aver consultato la morale. E benché la politica sia di per sé un'arte difficile, tuttavia il suo accordo con la morale non è in alcun modo un artificio, poiché non appena si trovano in contrasto, la morale tronca i nodi che la politica non è in grado di sciogliere. Il diritto degli uomini deve essere sacro, qualunque sacrificio ciò debba costare a chi sta al potere. Non si può tergiversare su tale questione, né ricorrere all'impiego di un diritto prammatico condizionale a metà strada fra il diritto e l'utile, ma ogni politico deve inchinarsi al diritto, sperando in cambio di giungere, benché lentamente, ad un'altezza da cui il suo nome risplenderà in perituro. Beh, quanta differenza col teatrino dei partiti che ogni minuto ci tocca raccontare. Capanna, siamo in conclusione. Nel ringraziare Fabio Tamburini, l'attore straordinario, Radio 24 e il Piccolo Teatro, io mi vorrei congedare dedicando a tutti voi, quindi la Radio, il Piccolo Teatro, a ciascuno dei presenti, una scritta che una mattina capitò di leggere qui a Milano sui muri di una università e che diceva: i grandi, intendendo per grandi quelli che fanno il G8, il G20, che fanno finta di decidere i destini del mondo, i grandi ci sembrano tali solo perché siamo in ginocchio. Alziamoci. Straordinario. Però in conclusione ti rubo il ruolo e una citazione la voglio fare anch'io. L'ho vista scritta in un asilo nido di un paese centroamericano e mi ha molto colpito come scritta. Diceva, e scusatemi perché non so lo spagnolo, los niños nacen para es felices, e per essere i bambini nascono per essere felici, e per essere felici occorre più saggezza che follia.